comunque sono operativo anche di là. Dove là? In che merda? Eia, mi dovrai dire se ce l'hai, mi dici come ti arrivo di là. Ok, già ce l'ho io. Sul 7? Sì signore. Facciamo la prova e poi stringo tutto. Cappa là, chiama. Bene. Sì, ma cannonata c'è. Cappa, di là non è che potevo parlare perché posso arrivare anche più forte di là, però è inutile, non disturbi ed è un casotto, mi tocca bisticciare, capito? E no, perché viene a rompermi le scatole quello lì. Ma non vedo la becciura, cazzo, non vuoi il di cazzo 4, cazzo, un po' guaretto di cose, a venire l'antenna, verrà un rompe più coglione. E vabbè, già ne parliamo di persona, là. Carità, che gente, cazzo. Di non dare balle di passioni così. Non sono finito per colpa sua all'ospedale, sono tutto messo male per colpa sua, perché mi sono adirato e è successo un casino. Mi è venuta la pancreatite, mi è venuta, quella lì mi ha scatenato il diabete, in più mi è uscita un'ernia, devo fare 3 operazioni. Un cazzo mi ero incazzato io, l'avevo fatto vicino a Giussa, Dio mio caro. Bisogna avvallo, però purtroppo, e cosa vuoi fare? Cazzo di magrito, cazzo più di 10 kg. C'avevo la 50 di pantaloni e c'ho la 40, se mi vedi sono l'ombra di me stesso. Ti capisco, pezzo di merda, cazzo. Tanto già ripara anche 5 per il bastardo. Mi dispiace tanto Natalie. Dai, fammi finire questo lavoro che sono sul tetto e via. Sì, cappa, dai, già sono in ascolto qua io. Ok.